Basta con tutte queste settimane dell'amicizia, non ne possiamo più. Ogni settimana è la settimana mondiale dell'amicizia. Basta perché questi messaggi sanno di finto, sanno di falso. Ma scusa, tu quando li ricevi, che cosa pensi? Mica che quella persona non ha trovato le parole giuste per dirmi quanto è amico. Magari semplicemente ha spedito questo messaggio a tutta la rubrica. Allora, vuoi veramente far sentire a qualcuno che è importante per te? Mandagli qualcosa di tuo, di personale, pensato apposta per lui. A volte apro la mia scatola dei ricordi e tiro fuori messaggi, bigliettini ricevuti anche 10 o 20 anni fa. E credo che anche tu abbia un luogo in cui custodisci tutti questi ricordi preziosi. E a volte mi chiedo, invece di tutti questi messaggi lasciati su WhatsApp, spediti a decine, a centinaia ogni giorno, fra qualche anno, che cosa rimarrà di questi messaggi? Allora fai così: la prossima volta che riceverai un messaggio dell'ennesima settimana dell'amicizia, prima di tutto cancella quel messaggio. Poi pensa a un tuo amico al quale vuoi dire perché è importante per te. E poi scrivi un messaggio per lui, scrivigli un motivo per cui è così importante per te. Anzi, ancora meglio, fallo con un biglietto scritto a mano. O magari se è tanto che non lo senti, telefonagli, diglielo a voce. O ancora meglio, digli che hai voglia di prendere un caffè con lui. Vedetevi, incontratevi di persona. Anzi, non aspettare la prossima settimana dell'amicizia, fallo subito.